quando ad un giogo di un tempo quivi domita l'alterezza degli dèi e degli uomini vidi al mondo divi, i prese esempio de lor stati rei, facendo mio profitto l'altrui male in consolar i casi e dolor mei, che si oveggio d'un arco e d'uno strale febo percosso e il giovane Davido, l'un detto de l'altrom puro mortale, e vece ad un lacciuol giunone dito che amor pio del suo sposo a morte spinse, non quel denea come il pubblico grido. Non mi debbio doler s'altri mi vinse, giovane, incauto, disarmato e solo, e se la mia nemica amor non strinse, non è ancor giusta, sai, cagion di duolo, che in abito e rividi ch'io ne piansi, si tolte gli arallali e il giri a volo. Non con altro rumor di petto danzi duo leon feri o duo folgore ardenti che cielo e terra e mar dar loco fanzi, chi vidi amor con tutti i suoi argomenti muover contra colei di chi io ragiono, e lei presta se più che fiamma fenti. Armate eran con lei tutte le sue chiare virtuti o gloriosa schiera, e teneansi per mano a due onestate e vergogna alla frontera, nobile par delle virtù divine che fan costei sopra le donne altera, se non modestia, e l'altre due confine, abito con diletto, mezzo al core, perseveranza e gloria in sulla fine.